Cleopatra, sono il servo tuo. Cleopatra, il servo tuo sono, ti amo nell'oscuro, ti cerco come un genio e la sua lampada, Aladino, come un mago, ti porto in dono i doni d'Arabia, fenice, sana, sono nel tuo miele per rinascere. Cleopatra, il servo tuo sono, ti amo nell'oscuro, ti cerco con un genio la sua lampada, Aladino, con un maggio ti porto in oro i doni d'Arabia, fenice sono, sono nel tuo miele per rinascere, felice sono, sono nel tuo miele per rinascere, come nell'assassino dello zodiaco, avvelenerò vino, ucciderò chiunque osò e pronunciò le lettere C-L-E-O-Patra, contamo, le separerò con una lama. Il mio posto fu rosa e chiunque osa volerti in sposa, tu Lucrezia Borgia, femme fatale, machiavellica, tu psiche io amore, tu psiche io amore, tu psiche io amore. Il mio posto fu rosa e chiunque osa volerti sposa, tu Lucrezia Borgia, femme fatale, machiavellica, tu Lucrezia Borgia, femme fatale, machiavellica, tu psiche io amore, canova in fiore, ore lente in questa Firenze maledetta anticristica. Tu psiche io amore, canova in fiore, ore lente in questa Firenze maledetta machiavellica. Tu Lucrezia Borgia, femme fatale, machiavellica. Tu psiche io amore, canova in fiore, ore lente in questa Firenze maledetta anticristica. Croci ribaltate di una cura, la fuga dalla pena, dramma di famiglia, rimasto solo sulla penna, penna. Croci ribaltate di una cura, la fuga dalla pena, dramma rimasto solo sulla penna, feristi me con un pungolo nella critica, nero io cane, teschio dal cranio infranto, teschio cadavera, sede memoria dell'anima, teschio di cristallo maya, avventura del miracolo Cristo, taumaturgica, avventura del miracolo cristico, taumaturgica. Croci ribaltate di una cura, la fuga dalla pena, dramma rimasto solo sulla penna, feristi me con un pungolo nella critica, nero io cane, teschio dal cranio infranto, teschio cadavera, sede memoria dell'anima, teschio di cristallo maya, avventura del miracolo Cristo, taumaturgica. Cleopatra, il servo tuo sono, t'amo nell'oscuro, ti cerco, un genio e la sua lampada, Aladino, come un mago ti porto in dono i doni d'Arabia, fenice sono, sono nel tuo miele per rinascere, sono nel tuo miele per rinascere, sono nel tuo miele per rinascere. Cleopatra, il servo tuo sono, t'amo nell'oscuro, ti cerco con un genio e la sua lampada, come Aladino, come omaggio ti porto in oro, idoli da rabbia per felice solo, sono nel tuo miele per rinascere, sono nel tuo miele per rinascere, la nuova rinascenza, amata Firenze, come da mai, amata Firenze.